L'Ippodromo Arcoveggio vi aspetta lunedì 28 marzo alle 15 per la grande festa di Pasqualand. Un uovo di cioccolato in omaggio per tutti i bambini e uno gigante in estrazione. Poi l'ippotram per un giro nelle scuderie, i pony da cavalcare, i giocolieri, gli animatori e tante sorprese. Vieni lunedì 28 marzo alle 15 all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Cavalli, divertimento ed emozioni. Città del Capo e Anip Records vi invitano a... in via Clavature numero 10. L'ingresso è libero. Al Teatro Comunale di Sasso Marconi, Pongo e Barbara Fiorino portano in scena Uganda Giro alle ore 21 al Teatro Comunale di Sasso Marconi. Al Teatro delle Celebrazioni, ancora fino a domani sera, c'è Non ho parole di Paolo Händel con Piero Metelli. Mentre al Teatro San Martino è la seconda e ultima serata per vedere Transistors, azione ubiqua con i sistemi dinamici altamente instabili. Alle ore 21 al Teatro San Martino di Via Oberdan 25. Al Pavese abbiamo Drag Magic Queen, cena spettacolo a metà fra cabaret e le Folies Bergère. Il comico Marco Dondarini introduce i Panna Montata Project, duo canoro di formazione classica che interpreta brani tratti dal musical americano. Seguono Electra, Chris D'Alia, Rivette e Gemma Jones, che faranno rivivere sul palco grandi nomi come Liza Minnelli, Josephine Baker, Maria Callas, Milva, Mina e Raffaella Carrà. Interverranno poi la danzatrice del ventre Samira e la drag Marcella, una vera satira della donna nella canzone italiana. Alle ore 21.30 la cena con spettacolo, lo spettacolo prosegue poi dalle 22.30 in poi al Pavese di Via del Pratello 53. E concludo con le proiezioni. All'ex Mercato 24 alle 21.30 la rassegna Mondo Perverso, il tocco hard di Joe D'Amato, presenta il film Porno Holocaust del 1980 alle 21.30 in via Fioravanti 24. Nella sala Cervi della Cineteca alle 21.30 vengono presentati i film di un cinematore bolognese. L'associazione Home Movies ha recuperato i film di Nino Gatti, un cinematore bolognese, che furono girati in 8 mm in Super 8 a partire dagli anni 50 fino agli 80. Alle ore 21.30 nella sala Cervi della Cineteca di Bologna in via Rivareno 72, l'ingresso è libero. Questo per ora è tutto. Vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento alle 18.05. Delle opportunità da Città del Capo Radio Metropolitana. In collaborazione con Natura Sì, il supermercato di prodotti biologici di Bologna. L'Ippodromo Arcoveggio vi aspetta lunedì 28 marzo alle 15 per la grande festa di Pasqualand. Un uovo di cioccolato in omaggio per tutti i bambini e uno gigante in estrazione. Poi l'ippotram per un giro nelle scuderie, i pony da cavalcare, i giocolieri, gli animatori e tante sorprese. Vieni lunedì 28 marzo alle 15 all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Cavalli, divertimento ed emozioni. Città del Capo e Anip Records vi invitano a... Mercoledì 23 marzo da Bologna il folk con distorsioni di Franklin Delano più Egles O'Macall. In apertura e in chiusura DJ set di Federico Bernocchi accompagnato dagli screening video di Murat. Ingresso 5 euro. Murato, il mercoledì sera più indipendente della pianura bolognese presso il Club 74 in via della Grada 10 a Bologna. Messaggio elettorale a pagamento. con Gianluca Borghi in Regione. Per i centri urbani liberi dalle auto, accessibili a mezzi pubblici ecologici e con piste ciclabili protette. Per le famiglie, asili nido e sostegno all'adozione. Per i lavoratori, più formazione e meno precarietà. Per i giovani, spazio ai loro linguaggi e alla loro partecipazione. Per i diritti dei migranti e la pace. Per le libertà di tutti. Il 3 e il 4 aprile per l'Emilia Romagna, vota Verdi, scrivi Borghi. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Gian Domenico Lamma. Mi chiamo Ugo Mazza, sono candidato DS nella lista Unite nell'Ulivo alle prossime elezioni regionali. Credo che la politica debba migliorare le condizioni di vita, alimentare la speranza nel futuro, tutelare il diritto al lavoro, assicurare una giusta retribuzione, abbattere la precarietà. Ti chiedo di sostenere la mia elezione con il tuo voto. Il 3 e il 4 aprile si vota per il rinnovo del Consiglio regionale. Vota barrando il simbolo Uniti nell'Ulivo. E a fianco scrivi Mazza. Informazioni sul sito www.ugomazza.it. Messaggio elettorale a pagamento, committente Giorgio Archetti. E 27, anche per quest'oggi, mercoledì 23 marzo, la Città del Capo, Radio Metropolitana, se ne va in onda periferico come ogni giorno fino alle 13.50. Oggi è mercoledì, per cui io, Michele, che sto con voi davanti al microfono, non sono da solo. Ciao Michele, sono Elia, buongiorno. Ciao Elia, ciao a tutti quanti all'ascolto, qui dal Sesto Senso della nostra cabinetta vetrata. Staremo assieme con un po' di musica come nostro solito, no? Certo. Come nostro solito, in più oggi abbiamo portato un po' di libri, così alcuni spunti, diciamo, no? Per arrivare al microfono, sì. Arrivare al microfono. Iniziamo subito con con una cosa molto leggera, con un altro ascolto da Call My Name, questo nuovo lavoro per il ritrovato sessantenne Joe Batan da Harlem, che pubblica questo lavoro per la Vampy Soul. Abbiamo già ascoltato un po' di tracce i giorni scorsi, perché è il dischetto super attual qui a periferico. Oggi passiamo ad ascoltare la traccia numero 6 da questo lavoro per Joe Batan, si chiama Ernestine, e ci risentiamo subito dopo. Fammi un po'. Keys that she left. funk aggiornato ai tempi e alle esigenze di Joe Batan, questo Call My Soul, suo nuovo lavoro dopo, fai conto, 20 anni che non pubblicasse niente di nuovo lui e Lia. Addirittura. Sì, ma è uno che tiene conto, nato nel 42, ha fatto i primi furtarelli fine anni 40 e primi 50, poi ha scoperto la musica come ragione di vita, gli hanno scritto delle belle canzoni, sì, come organista e come vocalist era uno dei più noti, insomma, nella scena di Spanish Harlem, e poi non solo, tutto il giro latino che mischiava un po' di tutto, dal mambo a rhythm and blues in quel di New York molti anni fa. Questo nuovo lavoro si chiama Call My Soul, esce per Vampy Soul, e la traccia che ci siamo ascoltati era Ernestine per Joe Batan. Bene, passiamo a stasera, dove passiamo a segnalarvi una cosa molto interessante. Stasera c'è un bellissimo concerto al TPO, il trio di Tim Sparks, che si esibisce con Greg Cohen e Ciro Baptista. Ed ho qui, giusto tra le mani, un disco. Casualmente, niente affatto. Un disco che ho comprato grazie a Piero Santi, poi sai, mi devi smetterla di vezzeggiare l'animo già smisurato per proporzioni di quell'uomo. Eppure è stato durante un Humus che ho ascoltato per la prima volta questo disco, e poi lo sono andato a prendernelo. Che ti devo dire? Quindi disco si chiama Tanz ed è l'esordio di questo trio per la Zadig Records di John Zorn. Questo è il brano che apre il disco. Vibischi di Gewesen, Prohibition, che stavate facendo durante il proibizionismo, ed è il primo pezzo, via. volevo chiedere. Volevo chiederle, è sicuro che i tedeschi non torneranno? È sicuro, perché? Niente, perché prima di andarsene il maresciallo tedesco che dormiva qui disse che sarebbero tornati. E ora dicono che stanno per tornare. Chi lo dice? La gente. Quale gente? Oh, la gente. Quella che passa per la strada, gli sfollati che sfuggono alla battaglia. Ma se il signor tenente dice che non è vero, allora è meglio così. L'importante è che la guerra finisca presto. Per quello che vi riguarda, la guerra è finita per sempre. La battaglia vi ha ormai sorpassati. Dove sono arrivati questi qui? Non ve lo potrei dire, ma non lo so. A voi com'è andata? Beh, ci hanno presi tutti i catini, molti polli e uova e un vitello. Ma siamo rimasti senza un catino per lavarci la faccia, è giusto? E non vi hanno dato niente in cambio? Niente, ce li sono presi e basta. E voi non avete scatolette, scarpe, coperte, alleate, sigarette, sapone, siete sicuri? Oh, la poca roba che ci hanno regalata. State attenti, scatolette, cioccolata, sigarette, zucchero, caffè, quelli ve li potete tenere, ma non vendere. Però non fatevi vedere in giro con coperte, scarpe e uniformi alleate, specie dalla military police, con i berretti rossi. Sennò saranno dolori per tutti e mesi di galera per gli uomini. Nascondeteli bene, come avete fatto con le ragazze. Dovete aver nascosto le ragazze. Dove avete nascosto le ragazze? Non voglio saperlo. Fate lo stesso con la roba, intesi? Siamo intesi. Quella che lei ci ha appena letto è un piccolo estratto da una raccolta di racconti di un giornalista corrispondente, ne parlavamo prima con te Elia, yeah. Ti raccontavo di lui, è uno scrittore italiano nato nei primi anni 20, Gian Gaspare Napolitano, che in questo testo, In guerra con gli scozzesi, raccoglie storie spaccate dalla sua esperienza come ufficiale, lui prima era corrispondente per molti giornali italiani in guerra, poi è diventato ufficiale di collegamento con l'armata britannica durante la liberazione, comunque durante la risalita della penisola con le truppe alleate, e qui appunto è assieme a un reggimento di scozzesi, il Black Watch, e si trova in Romagna e cerca di tenere contatti con la popolazione e con i partigiani. È così, una prima, come potremmo definirla lì, è il primo di una serie di letture? Un primo assaggino, un primo morsiccino di questo clima resistente che ci piace ormai iniziare a respirare. Ormai ci pervade perché si avvicina, manca un mese, il 60° anniversario della liberazione, e ci sono già state molte iniziative. Sono stato io stesso a vedere Scemo di guerra, Arena del Sole, fortunato me e fortunati quelli che c'erano. A vedere Scagno Celestini, che su Resistenza e storia in generale dà sempre un contributo molto personale e sfaccettato. Sono forse i contributi quelli che ti toccano dritti al cuore, perché sono universali, storia personale che diventa universale in questo caso. Sì, forse questa è proprio la peculiarità di Celestini. Niente, ci saranno altre due o tre letture più avanti, così per darvi qualche spunto anche per recuperare questi testi o per andare a ripescare quello che avete in biblioteca o in magari insomma così foto speciali, film, quello che volete, insomma, per riprendere un po', come dire, la confidenza con questo materiale, con queste testimonianze. Andiamo avanti, Elia, c'è un piccolo stacco musicale, dai. Quale? La prima? 16:44, periferico, sempre con voi da Città del Capo, Radio Metropolitana. Questo era un brano molto, molto lento e dinoccolato, sorry, per Minest Man Contest, un produttore californiano che così fa dell'hip hop strumentale e sornione, per prenderci una piccola pausa durante questa puntata di letture. Ma con calma. Con molta calma? Sto imparando a leggere volta per volta. Va benissimo, Elia. Andiamo con la principessa delle Ande, Ima Sumac. Sulla cresta delle Ande con i Ima Sumac, questa voce straordinaria che torna dal passato. E adesso torniamo in America, dico giusto? Torniamo negli Stati Uniti. Il brano però, magari per correttezza all'ascolto, era la 11. Questa era Waira, sì. Waira, ok. Dance for the Winds, la danza dei Andiamo Winds. Avanti con un po' di musica, una chitarra. Begin with, it's a voice much like the one that last spoke. As an echo it edits, and it only tells half a joke. Gap precedes the rejoinder, editorially it's cruel. Statement comes back a question, and a question returns a rule. You could set your watch to it if you didn't about the time. You decide to level with the thicket. Can you really play it, or do you just trick it? You learn not to mind the gaps. The rhythm is is positively tidal. It renders up a presence in which silence returns as an idol. Silence returns idling in a purr, idling like a delayed punch, or a line marking contours of a figure inescapably blunt. When you decide to level with the thicket, can you really play it, or do you just trick it? And then it's our two voices, estranged in non sequitur. Jokes multiply as phrases divide along a higher form of humor. With two of us before the thicket, I answer you with a question. By definition, it returns in shards of gambit or just ambition. The Thicket, un vecchissimo brano di David Grubbs, il suo primo lavoro solista del 98, così recuperata la voce e la chitarra di David Grubbs ogni tanto fa bene anche in queste giornate assolate. Decisamente, stanno sparando a ombre rosse, suppongo. Questa breve citazione viene da Beppe Fenoglio, è un libro che ho appena trovato, una specie di diario scritto in inglese, un po' quello che è diventato poi il romanzo Il partigiano Johnny in embrione. Per chi non avesse mai letto Beppe Fenoglio, fatelo, mi sa la borsa, potete trovare parecchi dei suoi libri. Anche nelle altre biblioteche, insomma, si trova, girando e cercando. Senz'altro, ma anche in librerie. Torniamo a noi e concludiamo con Motorpsycho, che ne pensi? Sì, direi che va bene. È quella sopra o quella sotto? È quella sotto lì. Di corsa, volevamo salutarvi, darvi l'appuntamento a mercoledì prossimo. Domani non c'è Vanni, ma parliamo di Canicola, una nuova rivista di fumetti autoprodotta che è uscita in questi giorni. Ne parliamo con alcuni degli autori. Vanni tornerà giovedì prossimo, noi ci vediamo dopo Pasqua. Dopo Pasqua, a questo punto direttamente. Mi raccomando, ravvivate le vostre letture e state accorti, davvero. Ci lasciamo con questa Neverland dei Motorpsycho? Sì. Allora, buona giornata, ciao e tanti baci e buon ascolto. Grazie a tutti, ciao.